noi come Maleducazione e come Link Studenti Indipendenti abbiamo voluto fare questa azione performativa in coordinamento con in realtà l'azione che stavamo svolgendo all'interno dell'organo studentesco universitario, ovvero oggi abbiamo provato e siamo riusciti ad approvare la mozione che delibera appunto la volontà degli studenti di istituire una convenzione con l'università, con i consultori e l'ASL di Bologna per restituire quindi la possibilità e l'accessibilità degli studenti alla contraccezione gratuita. In questo senso performativamente abbiamo voluto riempire via Zamboni la zona universitaria di preservativi affinché tutti sapessero che da questo momento in poi l'università avrà un ruolo all'interno appunto della promozione dell'autodeterminazione e delle scelte appunto riproduttive e non riproduttive degli studenti e delle studentesse. In particolare chiedete appunto contraccettivi gratuiti per gli studenti fino ai 26 anni. Sì, infatti la mozione non cade appunto come rivendicazione vacua, ma si allega a quella che è appunto una delibera regionale istituita nello scorso anno, in cui vengono stanziati dei fondi affinché entro i 26 anni nella regione Emilia Romagna ci sia contraccezione gratuita appunto a tutti i giovani che vogliono accedervi. In questo senso evidentemente è una delibera che risponde alla carenza nazionale rispetto alla contraccezione gratuita, che dovrebbe essere in realtà garantita con la legge 404 sui consultori, ma che di fatto in Italia non è affatto accessibile per alle classi meno abbienti e soprattutto appunto alle giovani generazioni. Ecco, ora la palla passa all'alma mater, dovrà essere lei a decidere. Ci sono esempi in Italia o nel mondo in cui questo è realtà? No, in Italia non ci sono ancora esempi di questo tipo. In realtà esempi appunto fuori dal panorama italiano ce ne sono, come vedi la Francia, dove appunto la contraccezione è gratuita e super accessibile soprattutto alle giovani, ma soprattutto al modello Colorado, dove si è investito tanto in termini di sanità e di salute sessuale e di prevenzione anche delle malattie sessualmente trasmissibili, ed oggi ha avuto dei risultati incredibili, però il 40% in meno di gravidenze indesiderate e a maggior ragione una consapevolezza maggiore all'interno delle fasce più giovani della popolazione. È chiaro che questo non può e non deve essere un canale istituzionato, non è solo l'alma mater a dover gestire questo tipo di relazione, così come evidentemente viene proposta anche all'interno della mozione, ma con l'autogestione anche degli studentessi e degli studenti. Non a caso noi stiamo facendo partire un progetto che è una consultoria studentesca autogestita che si chiama La Mala Consiglia, appunto che vuole giocare nell'ottica dei cattivi consigli che appunto questi studenti tra di loro vogliono provare a darsi e provare anche a essere tramite più vicino alle studentesse e agli studenti per accedere a quei servizi che ad oggi una città come Bologna, dove la maggior parte degli studenti è fuori sede, è difficile riuscire davvero ad accedere e a conoscere quelle che sono le possibilità ad oggi in campo e quali dovrebbero essere le possibilità da ampliare in termini appunto di scelte, desideri e corpi. Questa iniziativa di oggi è inserita nel percorso Molto Più di 194, giusto? Sì, esatto, infatti si è voluto fare in occasione della campagna appunto di Una di Meno per il quarantennale della legge 194. Il 22 maggio infatti saranno 40 anni da quando viene approvata la legge appunto per l'interruzione volontaria di gravidanza, una legge che fin dalla sua approvazione ha sempre destato grandi perplessità nel movimento femminista e tutt'oggi dimostra quelle che sono le sue carenze. Non a caso il 26 maggio ci sarà un corteo in varie città d'Italia, compresa Bologna, appunto chiamato da Una di Meno, che rivendica proprio questo, molto più di quello che è una legge pensata come un compromesso tra la società civile e i partiti cattolici di quel tempo, e che tutt'oggi dimostra evidentemente di essere inefficace e di ancora di più stigmatizzare e patologizzare l'aborto come invece non dovrebbe essere, appunto come non più come una scelta della singola, ma appunto invece come un problema su cui appunto obiezione di coscienza e una serie di altri fattori intrinseci alla legge continuano a creare problemi.